fatto esecrabile, l'universo veneri per me, a veneri per me. Traditor, che compensi dal guido dell'amico tuo primo, dell'amico tuo primo, la peste, per tutte ogni memoria, l'odio e la morte nel vero.